ricevo uno cacao. Guarda che fruscente i nocchi. Anche qui si chiamati. Attenzione, cambio canale 10, copiate il bombolo che vi fa chiamata K. Finché non si mette un termostato, Ha tolto ne ho staccato la ventolina, perché intanto cioè il termometro, la sondina del termometro posizionata e non sale più di 30 gradi, sicché ne ha giù bucata, ne ha giù caccata. No, è sempre sott'occhio perché c'è il termometro con la sondina dentro. E ho notato che non sale più di 30 gradi, sicché cosa so che chi vi ha tenuto la ventolina sempre in funzione. Ma non è che scalda tanto queste alimentazioni, questo è un 50 ampere. Io non sì, non scaldano, sono abbastanza. Io ho due, uno da 35 di 12 mesi. E uno da 50 che però non l'ho preso, l'ho ordinato su internet, ho pagato 25 euro. Qua c'è l'interruttore però, c'è l'interruttore, eccetera, molto più robusto, fatto meglio, ma. Non si scorta, non si sa mai. Però funziona giù, PMR. Ah, boh, non lo so, io sul portatile ho due frequenze completamente diverse impostate. E intanto non stava piantando nessuno in PMR. Come non ce l'ho davanti, è sotto la scrivania, in TV, giusto per ascoltare, se entra qualcuno, se devo fare qualche prova con qualcuno, ma vuoi di macchinino che sembra, sotto, ma così vedi, già si sente poi. Va bene, grazie, ragazzi, di freddo, di vento di nuovo, boh. Poi il vento c'è, sì. Invece mi dice, dai, buco il telefono a proposito. E beh, là. E beh, qua siamo. Che mi hanno regalato oggi una TV 55 pollici, HI, smart. E la scheda ci vuole, l'ho già trovata. Con 30 euro si sa, è nuovo, nuovo di pacca. 55 pollici è una bella bestia. Cazzo, io te ne fiammate, è nuovo, ma tu tutto, so ce lo butto, no, vengo lo prendo, sono trovo, sono caricato, è grande, so che non c'ho spazio, non so dove metterlo, devo prendere un altro mobile, affiancarmi all'altro mobile, tu che ti ho mandato la foto, ti ricordi quella cazzo di piera, te ne affianco un'altra, là ci sta. Se hai smart TV, se vuoi fare il cambio, io ti do 46 e te ne hai 55. Questo qua è completo, veramente l'avevo pagato quasi 800 euro. Non l'ho pagato 600 euro io in offerta, smart TV completo. Anche mille smart TV. Ho 46, no 55. Chiaro, adesso ordino la scheda e vediamo un po', dovrebbe partire. Se funziona, è mia nuova, ce l'ho neanche due anni, ho fatto nuovo da Cosio, come si chiama, Fraganietta, nuovo, adesso mi andiamo a mettere su un'altra TV, attenzione, chiamare un'altra TV è un po' un casino, questo in 4K, in 3K, 2K, tutto va tutto, computer, tutto. Però questo qua è completo, completo. Sì, praticamente accende la spia, dai accensione non accende. Invece c'è qualche tensione che non sta passando bene, ma ho trovato una scheda, praticamente c'è scritto mai usata, aperta mai usata, 30 euro. Poi, nel caso che non va, posso anche restituirgli la scheda. Provo a farmi sapere, io già ne ho poco, sono moglie. A voi è fatto sbagliato, ho preso il 55, solo c'era lui, non fatto, ho preso quello. Ho pagato 540, mi sembra, poi 600 euro. Che vagava. Brecco per un controllo. Avanti. Cappa, me lo dà un controllo come sto uscendo? Forte, chiaro, positivo, Gabriel. È venuto, tutto a posto? Ehi! Ma chi, perché gridi un po' cazzo? Mi serve un bigiotto, Gabriel. Non so se è l'antonello, non ti preoccupare. Non so l'antonello. E finirà. Finirà. Mi sono messo l'antenna in via Milano. Via Milano, sì. Ti sto sentendo l'alternata. A parte il fatto che c'è tutta scarica con quel microfono. E qua c'è l'antonello, arrivano per più 60. Non la devi dire, ma così ti muovi sotto un gas. Questa pompetta, parlare da solo un attimino. Cosa sta facendo il microfono? No, negativo, non ce l'ha lui il microfono. Capito, va bene. Dai, evita pompetta su WhatsApp, intenuta da fatto le campione del mondo. Dai, lo video i giovani nobili, diciamo che è bugliato, sotto tutto fuggito dalla spiaggia, fisico bestiale. Ma io faccio sognare motopompa. Ah, quale motopompa? Gatta. Sta facendo. Capa, ma la pipine, come esco con questo? Io come esco con questa murata? Molto meglio di lui. Molto meglio, è che tutto a fare, che c'è un microfono sempre. Come da WhatsApp, là? Cazzo, tutta a trudi. Ola, prova se è ancora scariche. Cosa? Ancora scariche sono. Insomma, così. Capa. Capa. Ghianda. Cos'è ghianda, cos'è? No, stavo provando a vedere come andava questo apparecchio. Sì, oggi si è staccato, lo fai agganciato. Già lo so già. Ah, infatti. Adesso va molto meglio agganciato. Sarà duvisso il problema. Infatti lì c'è un problema. Chiappa. Ui. Chiappa. Ma perché è sganciato come arriva? 9.40, no? 9.40, 9.60 agganciato. La faccia ne rivaria. Siamo vicini al collegamento, perché io molto meno ti sto arrivando. E ho gas a fondo scala, sì. Beh, siamo vicini, quindi. I nostri segnali sono quelli, quello suo, quello Roberto, quello Fabrizio, quelli che ho vicino. Cappa. Sì. Dopo facciamo un'altra prova, facciamo. E andare, già. No, te la faccio io la bolla e ti ringrazio io da urino in terra, mi. Non mi fa passare la fragadria. Passa. E lui, già fasci. Lascialo dormire, lascialo, già fa bene lì a me. Chiappa. Appena posso vediamo quell'altra questione. Quell'altro apparecchio, fu tutto, lo sai? Quello che mi hanno dato. Tutto quello che mi hanno dato, voglio. Quello che ci dovevo agganciare l'MB+4. Ok, come puoi, hai trovato tutto? Sì, ma l'apparecchio fu tutto, non va più. Perché? Lo sanno i suoi buio. Controllate l'impianto, perché l'altra volta c'avevi il segnale che saliva e scendeva. Tanto controlla bene l'ispettore, perché sono un bel pericoloso con l'ispettore. No, non era questione di ispettore, no, sei tranquillo. Ma qual è quel partito? Quello bello che piace a me? Quello con l'eco? No, per fortuna no, l'altro. Quello che ci fa male? Ehi. Sì, vabbè, tu mettitene uno, cazzo, mettiti quello con l'eco, quello che fa un bel bene, che quando agganci di mia esce un bel bene, capito? Ti metti quello e sei a posto, così lo lasci del buon tempo al garage. Cappa. Ma come? Fammi ascoltare, non si può fare. Mi voglio ascoltare io come esco con questa cosa. Quello è il tuo microfono? No, non è il mio, no, quello di Antonello. Cos'è? MB+5, qual è il tuo? No, i densi è. Gli altri vanno bene, bella corposa, modulazione, ce va bene. Gappa. Che non lo so attaccare Sara, se no avrei fatto una prova da casa. Bastava lasciarglielo acceso nel canale e dicevi di schiacciare la portante blu. Cappa. Adesso Antonello mi sta facendo ascoltare per vedere come esco. Gannunabda. Esciami lì, 1, 2, 3, prova. E beh, assoluto e fruscendi, no? 1, 2, 3, prova. Vediamo, va bene, dai. Spegniamolo, se no è un casino. Va bene, va sentiamo un attimino qua. Cosa? Ti voglio dire una cosa. Ho occupato il telefono, lo sto usando mia moglie, ho il telefono con una sua amica perché ci è scarico. Ah, vabbè, vabbè, non c'è problema, già te la dico quando ti sento, ok? Dopo, vai, mi chiama che fa, c'è problema. Gappa. Ma quanto devi stazionare i nobili? 1-1. È uno al rapporto, non lo so. Hola. Così va bene. Così al meno, così al massimo. Capito. Hola. Ma a zero aumenta la radio. Ocra. Con i vati tutti chiusi. La radio aumenta. Non sento differenza io. Va bene. Gappa. Non la state riparando, la radio è tua. No, non la stiamo riparando. Gava. Gappa. Andate, dai. Tra poco andate a casa. Vamos, già la playa. Certo che sì, c'è un vento, un freddo oggi, boh, so che cambi sto cazzo di tempo. Cosa, Ocra? Ho detto, speriamo che cambi questo tempo, c'è troppo vento, freddo. Me lo auguro che cambi, sì. E ancora venivo a marzo, abbiamo tutto gennaio così. Oggi ho vento io. Vabbè, è così viva. Cappa. Poi proviamo a casa a vedere se scriveggia. Se scriveggia cosa? Se scriveggia questa cosa. Cosa dice bene, i suoi spiriti. Cosa? Cosa dice Treno, quello spiriti che c'è Antonello? No, non è spiriti, no. E cos'è? 87. Baracchino. Ehi. Io funziono bene. Esce un bambino con la radio. Sempre sentito bene Antonello io. Purtroppo no, non posso di più, non posso disporre, perché se quella là è andata male, adesso mi sono rotto le balle, è una cosa un po' come cavo, come Dio comanda. Quello va bene, con una bellissima radio, l'87 è una bellissima radio, l'ho avuta io, come baracchino, capito? Funziona molto, molto bene. Io guarda, l'ho sempre, ce l'ho avuta in passato, ma la mia, i fiani di scintille, il mio 87. Vabbè, ottimo per la truppa. Quello che ci ha colto, Daniele, quello modificato era il mio. Bene. No, ma poi escono bene, anche senza nessuna modifica, escono da favola con la radio, molto bene. Cappa, mi sono rotto le palle, non ho bande laterali, non ho niente, cosa devo fare? Adesso per il momento va bene così, poi mi metto i soldi da parte e me ne prendo una, come Dio comanda. E si conferma, la fai bene, tanto. Ma è così, questa passione è così. Io ho solo investito un po' nei vintage, nei baracchini, di questi non ne compro altri. Venduto a 4,40, non avevo visto di manco più la volta. Mi sono tenuto a 4,30 e 4,40, basta. 4,30 e 140, basta. È fatto. No, però adesso mi tengo, poi ne voglio prendere un bel, appena che posso mi prendo un bel 140, un bel tipo. Sì, qua sono i migliori, no? Non ti creano problemi, no? Io, nessuno mi può contraddire, perché io ho un'esperienza con questa radio allucinante. Io di 440 ne ho avuto tantissimi, 7, 8, forse anche 9, ma mi hanno sempre creato problemi, sempre. 430, 140, il C80 non mi hanno mai creato un problema, mai, qualche cazzatina, ma niente, ma cazzo, il 440 mi ha portato via una barca di soldi, sempre di fede, nata difettosa quella radio, cazzo, porca di provare. Cappa, sì, sì, più là me ne voglio prendere uno, me ne voglio prendere. Però adesso mi sono contento di questo, non è eccessivo e mi contento di questo, perché non posso. Oh, fregate che mi metto da parte e me lo piglio, è come se me lo piglio. Accetto i fatti. Va bene che va bene. Cappa. Luca, Pipe. Ma la metti la portante adesso, no? E chi è Luca? No, lui a me. Mettimi la portante. Chi è che se vuoi mettere la portante adesso? E io penso. Io invece pulisco me con Antonello. Non ce la fa nessuno. Ma anche quando era via Rezzetto, io e lui, no, non ci passava nessuno. Perché avevamo a tiro di schioppo, qua siamo ancora più vicini. Scappa. E quello faceva schiatta. Cioè, ma questa zona è bella, è la verità. Questa zona è bella. È bella. Diciamo, Antonella ha più problemi di me perché c'è tralici vicino, io non ce li ho. Quindi lui ha molto più QRM di me, io non ne ho QRM. Io sono sempre a 1, 2, massimo 3, ma massimo proprio tempo brutto, mi ruggi a 2,5-3, se non sempre a 1 QRM. Noi invece ce l'ha molto più alto, capito? E cosa devi fare? Gappa. Eh sì, no, io che già anda. Allora, no, sono contento, la verità, lo sto usando da un po' e mi piace, cazzo. Sto dicendo che vabbè, è bella come radio, ma funziona anche bene. C'è un bel funzionamento l'87, capito? Funziona molto bene. Ho fatto chiedere a Massimiliano, lui è esperto. Uno ha avuto 87 Gigi. Sono bellissime radio, mi piace un bel, bella compatta, bella grande, bella. Gappa. Se andava. Beh, qua adesso smontiamo tutto e io comincio a scendere a casa. C'è anche la signora che l'ho lasciata da sola. Ehi Anto, vai tranquillo, già sono qua, io nascosto, sto guardando la TV, vai. Ci sentiamo dopo. Ok, ciao. Saluta la tua bomba. Gappa. Saluti a... Io c'ho vedi una cosa. Che cosa te la regge sta cosa? L'ha diventato le switching, che c'è la regge. Ma davanti la brenta, Antone. Ma io non lo fa, mio va sempre... Ma sempre... No, forse non me ne sono mai accorto. Ok, dai, qua, monto e poi ci sentiamo a casa. Io vai tranquillo dopo. Ciao. Ciao. Ho dormito poco, dunque stasera mi sono fatto un riposino, sì, un'ora e mezzo, due ore, boh. Per cui, e quando mi sono alzato non c'era nessuno, allora me ne sono sceso giù, però ho lasciato il baraccino acceso e adesso sono risalito, vediamo un po' se c'è qualcuno ed eccoci qua. Ehi, io stavo guardando la TV, noi ce ne siamo proprio, boh, c'è tutto, non può uscire più, non può avere nessuno, venire in casa come detenuti, no, porca miseria, io sabato, almeno il sabato, domenica no, perché ho abituato, domenica non uscivo perché lavoravo, ma il sabato sì, se ne aveva mia fratella lavoratore, se ne aveva mia sorella, oppure veniva qualcuno sempre qua, cioè non si può vivere così, non si può vivere così. Eh beh, come tutti del resto, anche qua, quando andavamo noi a casa dei miei fratelli, o venivano loro, poi magari non so, una cena insieme o una pizza insieme, tutte queste cose qua, purtroppo oggi non si possono più fare, dal momento che c'è questo problema qua, e non accenna a diminuire, sembra una cosa incredibile, ragazzi, sempre, e così, guarda che qua c'è un golmi, io ho il telefonino, no? Che avevo scaricato Goal Alert, tutte le volte che giocano le squadre quando c'è qualche gol arriva il messaggio, cioè la voce praticamente Goal, che poi in realtà non è che sia così chiara, comunque avrai sentito, no? Capite, stavo dicendo, per cui non è possibile cambiare dal momento che c'è questo problema qua, cosa vuoi ti dico? Ma speriamo bene. Vabbè, comunque, speriamo che passiamo, ti posso dire, tanto non te affrontare discorsi, questa cosa c'è, ce la stiamo vivendo, e ce la vivremo ancora per tanto tempo, sicuramente. Vabbè, infatti mio figlio a casa anche oggi, e andavo così, si andava a Eddie, vi vuoi, ma ti all'altri, e chi è che sta giocando, perché quelle partite ci sono. In questo momento Genoa-Bologna ha segnato il Genoa al 44esimo, perché mi arriva il risultato e oltretutto anche le squadre che giocano e poi il minuto di gioco e siamo al 44esimo, perciò vabbè dai, sempre anche quando ci sono scuole spagnole, cioè spagnole, straniere, lo stesso discorso. Ma comunque, andare, poi naturalmente sempre con questo fatto del Goal Alert, c'è tutto un calendario, gli orari, a che ora si incontrano, tutto lì. Adesso ho finito il primo tempo, ho sentito il fischio, questo è il primo tempo. Poi quando invece finisce la partita ne fa tre di fischi. Fra un po' lo riprende, fra 10-4 ore riprende il secondo tempo. Ok, ma comunque già andava bene. Ma ce l'ho già da almeno un paio d'anni questa applicazione. Non la conoscevo neanche. Non la conoscevo neanche, adesso vediamo domani, ci giochiamo per squadra, non so. Forse c'è il Cagliari domani, ma no, stasera a Cagliari. Ho già giocato, non lo so. Aspetta un attimo, giù che c'è roba al fuoco, mia moglie ancora seduta nella poltrona. Sì, io lo credo, me lo posso immaginare, vai, claro, non c'è problema, figurati. Ah, 1, 2, 3, prova, ascolto in cuffia, 1, 2, 3, prova, sembra perfetta. Marco, ci sei in ascolto? Gianni, ci sei in ascolto? Tonino, ci sei in ascolto? Tonino, tu sei? Marco, Luca, ci sei? Caspita, quella portante che ho visto è però quella dello Spirito Santo. Ho visto un bel segnale, però no, non c'è nessuno, tutti a zondo. Ciao Giulio, io ci sono, però sono impegnato in questo momento. Ciao Giafra, grazie per essere entrato almeno a salutare, ciao. Va bene, se ti disimpegni siamo qua. Io sono in attesa che rientra Claudio, perché in questo momento è impegnato in faccende domestiche a casa. Per cui sono in attesa. Domani infatti si presenta. Sì. Ok Giulio, eventualmente ci sentiamo dopo. D'accordo Gianfra. Bene, bene. Eccomi qua. Ok. Sì. È entrato Gianfranco a salutare, però è impegnato a non portare alla radio, evidentemente ha altre cose da fare. Sì, beh certo. E che ti stavo dicendo? Il problema del piede è che a tua moglie, guarda che non è una cosa da poco, mio qua, già lo so. Tu pensa che io il 13 di novembre avevo fatto una storta al piede sinistro. Beh, siamo già al 9 di gennaio e devo dirti che ancora un leggero risentimento di dolore ce l'ho. Non c'era frattura, almeno penso che non ci fosse frattura, però mi era diventato il piede tutto livido, tutto, sopra il petto, nel piede, nel fianco, tutto, dappertutto. Si vede che avevo rotto qualche tendine, non lo so. So solo che non sono andato nemmeno al pronto soccorso, proprio perché per il fatto del virus, eccetera, fatto, ma già passerà. Così è stato, già è passato, però ancora dal 13 di novembre, pensa un po' quanto tempo è passato, quasi due mesi praticamente, è ancora un leggerissimo dolorino alle volte, non sempre, ma alle volte, alla sera ad esempio, quando rimango molto in piedi, sento un piccolo risentimento di dolore. E non è un problema, il piede deve considerare che porta tutto il peso di tutta la persona, per cui non è così semplice, guarda. Lo so, non è così semplice, no? Comunque, due punti li hanno tutti rotto, in fondo lo stesso, adesso però deve fare riabilitazione, quando poi c'è più la terra fa male, quindi è un bel casino. Me lo posso immaginare, già lo credo, caspita. Certo, sì, lo so, quel discorso lì, perché mi ricordo che la fidanzata di quel ragazzo che ha il negozio degli animali lì accanto al mio magazzino, anche lei aveva avuto la stessa operazione, così. E ci ha piegato un bel po' a guarire, però guarita completamente, grazie a Dio, sta bene, adesso può anche correre. Ma per dire, no, è un problema soprattutto quando questo problema ce l'hanno le donne, perché le donne si mettono un certo tipo di scarpe, eccetera. C'ho anch'io quel problema nel piede sinistro o qua, però io faccio così, quando mi compro le scarpe non compro mai scarpe che abbiano la punta troppo prolungata, compro scarpe che abbiano il plantare molto largo e secondo il numero della scarpa tu tieni presente che io ho il numero 40 di piede, no? Però ci sono certe scarpe che al numero 40 mi vanno benissimo, ci sono altro tipo di scarpe sempre al numero 40 non mi vanno bene, allora mi compro il 41. Beh, ti dirò, da quando ho adottato questo sistema non ho mai più sentito il dolore a quell'osso, dai, perché quello è un osso praticamente, l'arlo ci valgo, vai. No, ho visto tutto ciò. 10 punti, forse 12 o 13, se non ricordo, però c'è il foro, questo perno, abbiamo messo per così un grosso, e si è trascurato per lì, io avevo detto di andare prima, e avevo paura, quindi niente da fare, speriamo si rimetta a posto, perché sinceramente ne ho già la scarpa piena, perché sto facendo tutto io. Stamattina sono uscito un freddo a fare la spesa, fare quella acqua, di solito per lì, pure da una mano io a portarla sulla roba, perché... No vabbè, pazienza, no, passerà, dai, c'è problema. Già passa, sì, già passa. D'altronde, in questi casi qua è ovvio che... se non può fare niente lì, perché giustamente come fa a stare in piedi, e allora è chiaro che fai tutto, tua figlia lavora, per cui l'unica persona che rimane a casa sei tu, e allora devi fare tutte queste cose. È già una grande bella cosa che certe cose le sai fare, che ti difendi. Tu immaginati se una cosa del genere succedesse a casa mia. Io non so fare niente, vabbè, c'è mia figlia, d'accordo, tutto quello che vuoi, ma per dire, no, io non so fare niente di niente di faccende domestiche, eccetera. Non saprei nemmeno, ossia che so cucinare, oh, per carità, meglio niente. Io. Purtroppo ognuno di noi ha le sue capacità, io quelle capacità non ce le ho proprio, o qua. Infatti, la fortuna è che io so fare tutto, ma stavo molto molto molto bene in cucina, ho già preparato la cena, adesso fa un po' della mia figlia, alle 8, che deve fare a casa sua, non è che faccio il fenomeno. Viene qua dopo. Oh, fortunatamente io me la cavo molto bene. Io sono una donna in tutto, capito? Le pulizie, nel resto, fare tutto, stirare, cucire, tutto, cucinare, tutto, tutto, tutto. E anche abbastanza bene, quindi non è un problema per quello. Che mi dispiace volerla così, perché anche l'ho abituato a uscire, a fare la sua passeggiata, andare dalla frutticolera, scambiare due chiacchiere con le persone, sempre rinchiuse in casa, insomma. Alla fin fine non va bene così. Passerà, poi giudizio, passerà. E se non può passare, io che picchia. Non interessa, ci posso uscire, lavorare di nuovo, riprendere il routine quotidiano che avevamo un po' tutti, perché così è una ristorazione, non è che va a casa di fuori di tutto, santo giorno a casa, ma per carità. Purtroppo sì, ti capisco, però io cerco di prendere la filosofia, perché tanto non cambia niente e uno si deprime inutilmente. Purtroppo bisogna avere coraggio nel resistere, ecco, perché sennò poi è peggio. Guarda, già la situazione è pesante per quello che c'è in giro e per quello che si sente e tutto il resto. Figuriamoci poi se ci deprimiamo, lasciamo perdere. Invece bisogna lavorare, in questo caso bisogna agire di intelligenza, nel senso che una persona deve pensare che è l'unico rimedio per cercare di andare avanti in maniera meglio possibile è quello di resistere e con calma, avere pazienza, eccetera, eccetera. Purtroppo la difficoltà c'è, perché c'è, lo sappiamo benissimo, ma dimmi tu, nella vita chi è che non incontra difficoltà? Io penso un po' tutti indistintamente, tutti assolutamente, non manca mai nessuno all'appello, prima o poi qualcuno si trova sempre in difficoltà, purtroppo è così qua. Difficoltà sono un po' dolorose, anche difficoltà economiche, certo, perché se uno non lavora non fa, non è che i soldi piovono dal cielo, no? Che non nasci ricco, allora quella è un'altra cosa, ma se te ne devi trattare come tutti è un casino. Stamattina sono uscito, sono andato a fare le commissioni, sono andato lì al centro assistenza dei telefonini, ci conosciamo, parlando con loro, anche loro ci siamo alla frutta, gente di giro non ce n'è, quindi insomma le ricariche ormai si fanno tutte online, insomma, eccetera, qualcosa sì, abbiamo lavorato un po' in Padova, niente di particolare. È un casino, basta. Vediamo, speriamo che si rimetta in funzione la macchina operativa. Ancora non si sa se da lunedì ci sono altre restrizioni, così mi stavo dicendo mia figlia, non lo so neanche lei, non ho arrivato niente. Ma io ho sentito dal giorno 16, mi sembra che c'è un altro DCPM, non lo so poi a cosa si riferiscono, quali altre misure ci saranno, no, questo non te lo so dire, perché non mi sono interessato più di tanto, ormai mi sono rotto anche di ascoltare tutte queste cose qua, perché intanto non cambia niente. Io so solo che devo, per forza di cose, rimanere e cercare di riuscire il meno possibile, solo in caso di strettissima necessità, come sto facendo del resto già da un anno. Non è che stiamo parlando di ieri, è già passato un anno, perché io sto parlando da gennaio scorso che sono sempre praticamente, quasi sempre costantemente a casa. Non vado più nemmeno a fare la spesa, ma mia figlia va. Quando è che sono andato? Io sono andato ieri a dargli una mano per fare il carico del pellet, qui nel negozio quello che avevano aperto un annetto fa, la MD, e lo compro lì perché abbiamo fatto il carico nella macchina e per cui le ho voluto dare una mano. Ma da casa mia a MD, già lo sai dove, l'altro giorno ci si è passato davanti e in linea d'aria saranno 100 metri, 150 metri in linea d'aria, per cui non è che mi allontano più di tanto. Tu pensa che non sono andato nemmeno a ritirarmi la pensione ancora questo mese, ma no, non è un problema, non è che ho tutta questa necessità, grazie a Dio, e dunque se non vado, per dire, un giorno posso andare l'altro, posso rimanere anche un mese, posso rimanere anche due mesi. No, a due mesi no, oltre due mesi no, perché se no poi te lo bloccano e la rimandano all'Inps. E allora prima della scadenza dei due mesi vado, magari me le prendo tutte e due insieme. Ma questo è perché c'è questa possibilità con le poste, no? Perché io, ripeto, vado alla ritiro e poi faccio il trasloco. Ma era solo per fare quattro passi, niente di più, non perché se no avrei potuto anch'io farmi il banco posta, non me ne frega niente, io vado con un altro sistema, capito qua? Ma ripeto, siccome ho incominciato così, ho sempre continuato così. Va bene, dai, andiamo avanti. Ricordo bene, così che me lo chiede, mia moglie forse me lo stava dicendo poc'anzi, che si chiude alle 6 sempre, però puoi lavorare poi internamente, cioè la gente che c'è dentro può rimanere e continuare e poi continuare a lavorare, ma che senso ha? Se può continuare a lavorare una persona la lascia aperta e basta, non se ne parla più. Poi non riesco a capire questo sistema adesso. Basta pensare solo questo, io alle volte ci penso, non è che mi intendo di politica perché non me ne frega più di tanto, tra l'altro, no? Però io dico questo, tu non vuoi creare assembramenti, no? Però mi apri le scuole creano assembramenti, sia nelle nei trasporti, sia nelle aule, eccetera, eccetera. Non a caso, proprio oggi stavo leggendo, su 970 tamponi che hanno fatto, ne hanno trovato due studenti positivi, uno. Adesso non mi ricordo in quale posto è questo. Vabbè, ma a parte questo discorso, stavo dicendo, tu consenti ad aprire le scuole che potrebbero anche essere rimandate per un anno, se non da scuola non si va, non è la fine del mondo, mentre invece è la fine del mondo per migliaia e migliaia di attività, soprattutto imprenditori che hanno iniziato da poco, eccetera. Se tu quelli non li fai aprire, quelli sono destinati a morire. La scuola, se non ti diplomi oggi o non ti laurei oggi, ti puoi laureare al prossimo anno. Sono giovani quelli che si laureano, quelli che si diplomano. Ma che problema c'era? Per quale motivo vuoi tu aprire e fare assembramenti a scuola e non lo permetti alle attività commerciali, eccetera, eccetera, artigianali, eccetera? Ma allora siete proprio degli scellerati. Se proprio bisogna cercare di ridurre l'assembramento, allora mettiamo da parte la scuola per quest'anno, per dire, no? E facciamo lavorare chi effettivamente ha necessità e bisogno di lavorare, anche perché c'è gente che l'altro giorno stavo seguendo un programma, c'era uno che si stava lamentando, 3.500 euro di affitto ed era da settembre senza pagarlo. Ti puoi immaginare quello? Come fa a prendersi quello? Quello non si rialza più. Non è possibile qua, quindi sto parlando di un ristoratore di Pesaro, non se ricordo bene. Non so. Ma come non ce ne sono tanti altri. Aspetta un attimo, mi ha chiamato mia moglie, Giulio, un attimo, e riprendo subito. Vai, qua, non c'è problema, figurati. Ciao Matteo Giù. Ciao Natalia, e beh, come va? Meglio, già mi sto riprendendo. Ok, sono contento per te Natalia. Vabbè, piano piano. Purtroppo è così, ci vuole solo pazienza. Come ti dicevo una volta uno, pazienza è ci fermo, già mai compreso ci cosa intendo. Sì, fermo. Va bene, dai. Per andare peggio è meglio andare avanti così. Poi tutto già si risolve. E devo fare solo quell'altra operazione, ma adesso come mi riprendo bene, perché peso poco, 55 kg peso. Vediamo di riprenderlo un po' di peso. Piano piano, Natalì, quello piano piano, ma quello non sarebbe un problema, guarda. Il fatto del peso non sarebbe assolutamente un problema. Piano piano, quello che conta è ritornare in salute come si deve, poi il peso già viene da solo. E infatti. E poi faremo l'altra. Di Manito, tra un mese ci sentiamo, sì. Quando mi sono ripreso bene, allora già ci sentiamo. La fammi l'altra. Compreso. Intanto quell'altra che devo fare non mi addormentano completamente, quindi non c'è problema. Ok Natali, vabbè, non è, se lo fanno la cosa, si fanno la somministrazione locale, non è un problema, no, certo, anzi io devo essere sincero, la preferisco, perché quando uno la fanno totale, poi magari puoi avere anche dei problemi, ad esempio di coso, di stomaco, no? Che ti fa rivedere, eccetera, perché quando è totale è così, mentre invece quando è locale non ti succede niente, Natalia, assolutamente. Infatti, quella che mi hanno fatto già me l'hanno fatta totale, non mi sono capizzato manco che mi erano i strumenti, mi sono capizzato direttamente quello della sala operatoria. Certo, perché così, lo so, caspita, a me me l'hanno fatto tre volte, una volta me l'avevano fatta totale, la prima volta, ma questo risale a 10 anni fa, per cui esattamente nel 69, se ricordo bene. poi le altre due volte invece sempre dalla cintola in giù, proprio completamente bloccato. Poi quando incomincia a svegliarsi piano piano senti il formicolio e incominci, ma dopo Remi non è che ti sveglia subito, ci vuole tutta una, se te lo fanno per dire all'ora del pranzo ci vuole tutta una serata intera per svegliarsi completamente, le gambe ad esempio soprattutto, eccetera eccetera. E è meglio così giù. Adesso come mi sento un po' bene chiamo il dottore e glielo dico, e così me l'ha fatto fare. Non manco è finita, perché sono sempre con questo cinturino, se no mi riesce fuori e tocca entrarmela dentro, ma c'è. Lo so come funziona quel tipo di intervento. L'avevo fatto con un mio amico, dai, forse, ah, se già lo conosci, dai, ti ricordi quando ci incontravamo lì davanti al Moccador, eccetera eccetera, via Pascoli, quell'amico che tutte le mattine andavamo insieme a fare la colazione via Moccador, quando lì ce l'ha avuto quell'intervento, e dice che gli hanno messo una specie di garza, gli hanno messo lì per tenere, no? Però nonostante tutto, dopo anni che gliel'avevano fatto la prima volta, dice che gli si è ripresentato, ma non ha nessun fastidio. Interessante non avere nessun fastidio con Natalino. Sì, infatti, vabbè Giù, io ti saluto e rimango in ascolto perché non si sa mai che disturbo, ma per adesso non è venuto nessuno a bussarmi il campanello, là, diciamo così. D'accordo Natalino, tranquillo, dai, non ti preoccupare che tutto si risolve alla grande, dai. Ciao Natalino, io sto aspettando che rientra qua Claudio e poi magari continueremo questo. Buon ascolto allora, saluti in casa, ciao Natalino. E altrettanto, salutami a Claudio, dai, ciao. Sarà fatto, senz'altro, ciao Natalino, ciao. Giulio, dai, ci sentiamo dopo che ne approfitto, vado a portare il cane, ok? D'accordo, qua. Allora ci sentiamo magari più tardi, se coincide, eccetera, eccetera. Intanto tanti saluti da Natalino, che l'ho appena sentito, non so se tu hai ascoltato poco. Ok, ciao qua, alle prossime, ciao. Scusami, ma casino qua, dai, già ci sentiamo dopo, ok? Ciao anche a Natalino, ciao. Ok, qua, figurati, non ti preoccupare, ci mancherebbe altro. Prima le cose di casa, poi il baracchino, con il baracchino sempre dopo le faccende di casa. Ciao qua, alle prossime. Ciao, grazie, ciao anche a Natalino. Natalino, se hai voglia di ascoltare, sul canale 23 c'è Marino e Tore, puoi passartene lì ad ascoltare se hai voglia. Attenzione, c'è qualcuno, K. Hola. Ali, non mi senti? Media. K. Come ti arrivo? Guarda a vedere se è così, non è ancora tornato. La bagassa, mamma. Ha tornato? Adesso di meno. Qua. Poi il microfono, perché non può essere. Cos'è? Sta allucinando. Ma per l'ascolta, c'ha. No, non è a far l'ascolta. Ma porca puttana, cosa cazzo c'ha? Svitta di quella fare del microfono, quell'anello che c'ha il microfono, svittamelo per non farlo toccare con la massa, a vedere. Prova, lo fa sempre. Sì, lo fa sempre. Aspetta che provo. Ti vado alzati com'è? È la seconda manopola grande. Lo conosco l'apparecchio. Ho detto com'è tutti con tutti i batti a manetta? Se 9.30. A Addirittura. Buonasera, terrificante tu. C'è un'alternata fortissima. Lo so, mi ha rotto i coglioni. Aspetta che vado a controllare un attimino, eh. Abbi un attimo di pazienza. E via, ci siamo quasi. Sì, comunque è molto forte, 9.30, sì. Ehi, stavo ascoltando, 23, sono venuto un attimo. Ma Antonio lo sa che c'è alternata, a parte il segnale forte. Sì, già si sente l'alternata, già se la sente. No, buonasera a tutti, sto mangiando e quindi niente, sono in ascolto, ciao. Ma questa è la magica. Sì Antone, non è novità. Via. Va bene, va bene. Ebbè, non parlate più, ma io. Via, sono qua. Cazzo, c'è un dolore al cuore, cazzo. L'ho preso proprio stamattina, sono andato via. Mi ha mandato il medico di base, che poi infatti tanto devo fare il tappo di metodo, io lo facciamo, cazzo, ma tu mi ha richiesto un foe, un vento, cazzo. Sono entrato a casa quasi a mezzo e mezzo, ma per dire, con Giuseppe sono andato, cazzo, mi ha infilato questa cosa nel naso fino in fondo, mamma mia, e niente, io, cazzo, ho dolore, quel cazzo di tampone. E io? È un po' seccante, devono arrivare in fondo, più in fondo possibile. Via. Ma Antonio, come mai sta facendo con l'alternata fortissima? Ha cambiato qualcosa? E il microfono deve essere che sta rompendo le balle, il microfono deve andare dove, due ste cose. Perché qua a casa ce l'avevo di meno l'alternata. Però ci avevo inventato gli squigli, che si sentiva più che altro il coso, dai. Quella pentola che senti adesso, d'altro volte. Ho dovuto allontanarlo ieri notte, mi ha dato lo squicci, l'ho messo, l'ho dovuto mettere in fondo. Così si sente di meno. Ecco. Oh, Ale! Ehi, già. Prova adesso. Ce l'hai ancora, però ti sento un pochino più di radio. Aspetta. Azzone è andata, sei sceso il segnale, 9.10. Io? No, forse era Marco. E tu era lui che si adesso era calato, adesso col bip. Mi ha sconfusionato. Ma il bip di chi era? Di Antonio? Ehi, andava il bip di colui, perché sta usando un apparecchio con la regolatore del watt, capito? Quindi scende a mezzo watt, quasi 1 e sale a 20. Vado a vedere, Ale. Quando parte la tornata non ce l'hai, quando finisci di parlare si sente. E cosa rimbusso vai? Aspetta un attimo. Prova a tornare l'alimentatore da vicino al baracchino. Mettilo più spostato dall'altra parte, bene. È spostato, sei tranquillo che è spostato. Capito. Bravo che ti dia quello zio che c'ha. Come l'alimentatore, non lo so. Aspetta un attimo Antonella, erano i fili che stavano toccando poco fa comunque. Adesso già, quanto è? 9.30 il segnale. E già, fa scendere di watt, mettilo a zero, vedi quanto scendi di watt, cioè quanto scendi di watt. Il segnale, vedere. Guarda. Hola. 9.25, quando attacchi, cioè quando sollevi sale 9.30. Ma che radio vai Antonella? 87, perché? Oh, Antonello, non più 9.30. Sto usando il coso, quello di Giovanna. Cioè, quello di Giovanna. Quello usava Giovanna giù, il codex 4000. Attualmente devo regolare lo Smith, perché tu sei arrivi allo zero. E appunto, molto generoso. Col K stai arrivando a 9.20, come sempre. K, con tutti i watt aperti, dopo faccio un'altra prova. Allora, per eliminare quell'alternata,